Mix 24 di Giovanni Minoli. Senta cosa mi ha detto il procuratore di Catanzaro Gratteri e la risposta del vicepresidente del CSM Legnini. Quando c'è una violazione, quando c'è una fuga di notizie, quasi sempre la fuga di notizie esce o dalla procura o dalla polizia giudiziaria. Hai ragione Gratteri? Sì, ha ragione Gratteri. Quindi qualcuno ha dato l'ok? C'è quantomeno una sorta di silenzio assenso da parte della procura. Se no le notizie non escono fuori. Ha ragione Gratteri, che è un grande magistrato. Non sempre sono d'accordo con lui, ma in questo caso lo sono. Ha ragione Gratteri, ministro? Possono esserci dei passaggi nei quali non sempre il magistrato è coinvolto, però insomma tendenzialmente quello che dice Gratteri, con qualche possibilità ulteriore, ma tendenzialmente ha ragione. Buongiorno, bentornati su Mix 24. Gratteri dunque ha ragione, lo dicono il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini, il ministro della Giustizia Andrea Orlando, ma ha ragione su cosa? Sul fatto che la fuga di notizie, di atti che non siano depositati, in prima linea vede la responsabilità, oltre che del dirigente di polizia giudiziaria addetto, anche del pubblico ministero che segue il caso. Stiamo parlando nella fattispecie del caso Consip e delle relative fughe di notizie. Come andrà a finire non lo sappiamo, perché la Procura di Roma non ha ancora preso delle decisioni dopo aver avocato gli atti dalla Procura di Napoli. Quello però che è sempre più urgente è che arrivino delle risposte chiare in un tempo ragionevole, perché se le cose restano così il danno è per tutti, ma soprattutto per i cittadini che in molti casi sono vittime del cortocircuito che spesso si crea tra informazione e giustizia. Il caso più drammatico che abbiamo raccontato quest'anno è quello di Ilaria Capua. Da scienziata simbolo dell'eccellenza italiana, si è ritrovata in prima pagina schiacciata da un'accusa infamante e devastante: trafficante di virus. Lei, che oggi vive in America, ha raccontato la sua esperienza in un libro uscito per Rizzoli dal titolo Io trafficante di virus. Professoressa Capua, esattamente come ha scoperto di essere una trafficante di virus? Con una telefonata di un giornalista. Ero alla Camera e questo giornalista, Lirio Abate, aveva chiesto delle informazioni sulla viaria, mi aveva mandato una mail e io ero assolutamente impreparata a quello che stava per arrivare e mi disse: io sto scrivendo un articolo su un traffico internazionale di virus, lo sa, di essere la principale indagata. La principale indagata. Ecco, ma è possibile che non avesse avuto nessun sentore di quello che stava per accadere? Nessuno? No, nessuno. Ah, quindi quali erano le accuse esattamente? Procurata epidemia, trafficante di virus? Concussione, corruzione, tutto. Abuso d'ufficio, falso ideologico, associazione a delinquere. Qualunque cosa. 300 anni di carcere, 300 anni di carcere, anzi, in America forse la pena di morte. Sì, per fortuna in Italia l'hanno abolita. Ecco, per fortuna. Ma ha avuto paura di essere arrestata? Ho avuto tanta paura, perché erano delle accuse assurde. Pazzesche. Ma e quando è stata interrogata, che cosa ha detto al giudice, al PM che la interrogava? Ma io non sono stata interrogata. Cioè? No, da mai? Quando è uscito l'articolo, no. Io sono stata, mi sono presentata spontaneamente davanti al pubblico ministero nel 2007 per un'accusa di contraffazione di sigilli. Ma e su questa cosa qui, per cui rischiava la pena di morte in America, non è mai stata interrogata? No. Quando esce l'inchiesta dell'Espresso, lei in Parlamento ha sentito solidarietà da parte dei colleghi oppure no? A titolo personale sì, istituzionalmente no. Anzi, no. Ma neanche mi hanno le donne, anche neanche, un po' male. Neanche una manifestazione pubblica di solidarietà? Eh? Niente. Se c'è stata, mi è sfuggita. Sì. Ah, non l'ha vista? No. E la Presidente Boldrini, che è molto attenta a queste cose, non, niente? No, la Presidente Boldrini niente. Sono andata a parlarle, però diciamo che era impegnata su altri fronti e quindi... Non aveva tempo. Senta, all'interno della comunità scientifica? La comunità scientifica internazionale mi è stata vicina, la comunità scientifica italiana zero. Zero, silenzio. Lei ha detto, quando sei indagato o imputato, accusato dalla magistratura, sei radioattivo, appestato, contagioso. È la sensazione che hai avuto? No? Ti scansano e poi un po' ti vergogni, perché ti vergogni anche di esistere. Quindi sei colpevole fino a prova contraria. Sei colpevole. Invece perché che lo contrario. Scrivono i giornali, sei colpevole. Perché lo scrivono i giornali. Sì. Passare in un attimo da fiore all'occhiello della ricerca mondiale del paese, a appestata trafficante di virus, procuratrice di epidemia, procuratrice, ecco, è possibile che nessuno le ha dato il dubbio, il beneficio del dubbio? No. Niente. Nell'inchiesta pubblicata da Espresso c'erano anche intercettazioni. Ovviamente. Che sono state pubblicate. Assolutamente. Ma intercettazioni anche private. Sì, anche familiari. Anche familiari, io, cioè? Sì, con mio marito, che se io voglio chiamarlo Trottolino Amoroso, lo chiamo Trottolino Amoroso. Con mio padre, che era morto da poco, è stata tirata sono state tirate fuori delle parole fra un padre e una figlia. Ma perché? Cioè, quello di cui si discute adesso che non dovrebbe mai uscire, quello che non rileva. Ecco, ma che peso crede che abbiano avuto queste pubblicazioni, la pubblicazione di queste intercettazioni nella sua vicenda? Sulla mia vita, vorrei dire, hanno stravolto la mia vita e hanno condizionato l'opinione pubblica, perché io all'epoca, parliamo del 2006, ero in laboratorio, gestivo dell'epidemia, un virologo, di cosa vuole che parli? Parla di virus, e parla di virus come meglio crede, cioè può anche dire a dei colleghi, guarda che quello è un virus che scotta. Ma perché noi abbiamo il nostro modo, cioè, di virus che scotta non vuol dire che è una cosa che bisogna mettere nei tubi dell'acqua. Esatto. E quindi poi è stato fatto un copia e incolla di intercettazioni, diciamo, anche registrate in momenti diversi, che non avevano nulla a che fare l'una con l'altra. Hanno sbagliato un virus con un altro. Io sono 25 anni che studio i virus, perché mica sono facili, sono complicati. E delle persone che ascoltavano senza avere le basi scientifiche non capivano, hanno sbagliato. Ma lei adesso frequenta una psicoterapeuta, perché ha spiegato le vittime di stupro hanno bisogno di supporto. Lei si è sentita stuprata sostanzialmente? Assolutamente, mi sono sentita spogliata, denudata e impotente di fronte a questa violenza psicologica, perché assoluta. Io ero una scienziata modello, donna italiana che aveva avuto successo, che aveva fatto delle belle cose, e mi sono trovata un'assassina praticamente. Ecco, lei è stata prosciolta perché il fatto non sussiste. Intanto però la storia è diventata uno dei simboli, appunto, della disinformazione e anche della mala giustizia. Di cosa di più? Ma devo dire dell'uso strumentale, da un lato, che si fa delle indagini giudiziarie, delle inchieste, sia da parte della giustizia, ma sia da parte della stampa. Io sono andata in copertina, con una copertina giallo fosforescente, una persona vestita con uno scafandro che maneggiava delle scatole con scritto pericolo biologico. Senta, ma oggi in che rapporti è lei con il giornalista Lirio Abbate che ha fatto quell'inchiesta? Io non l'ho... Scusa, il giornalista? No, anzi... Neanche dopo che è stata prosciolta da tutto? No, anzi, dopo che sono stata prosciolta, addirittura ci è tornato sopra dicendo lei è stata prosciolta, ma il business fra dipendenti pubblici, ricercatori e le aziende farmaceutiche esiste. E questo, secondo me... Non è giusto, perché ognuno fa la sua parte. Ma lei l'ha querelato? Io l'ho querelato. Lei, anche il giornale? Anche il giornale, e l'ho anche citato per danni. Ma si è fatta un'idea del perché proprio lei sia finita in prima pagina coinvolta in un'inchiesta che si è rivelata completamente senza fondamento? Ha immaginato, c'ha nemici nell'ambito scientifico? Convergenze di interessi, forse ho pestato qualche piede, forse sono stata un po' troppo visibile, forse anche ho detto quello che pensavo. Poi sono diventata parlamentare, ho portato avanti alcune battaglie e questo forse... Ha dato fastidio. Ma lei ha mai pensato anche all'invidia come fattore scatenante? L'invidia proprio anche nel campo scientifico? Allora, io a dire la verità non ci ho mai pensato, perché io non riesco a credere che non per ha mai invidia... invidiato nessuno. Quindi... No, io non ho mai invidiato nessuno, ma io non posso credere che per invidia si distrugga la vita di una persona. Certo. Cioè, non va bene, gli puoi fare un dispetto. Al massimo. Gli puoi rigare la macchina, rigagli la macchina. Ma a qualche interesse particolare invece non ha pensato? Ha mai pensato di essere entrata... Che, appunto, l'entrare in politica... ha cambiato il suo status. E poi io facevo parte di Scelta Civica, quindi il partito di Mario Monti, il partito delle persone per bene. E forse si è voluto dire, guardate che anche lei, la scienziata, brava, insomma, ha fatto marcia. Però, ma cosa le ha detto Monti per convincerla a entrare in politica? Monti mi ha chiamato il giorno della Befana e mi ha detto: io ho bisogno di persone che sono conosciute a livello internazionale e che abbiano, diciamo, un'idea di come devono girare le cose. E, che ne dice di candidarsi? E lei, gli ho risposto: quanto tempo ho? 24 ore. E poi ho detto, ma perché no? Noi siamo sempre a lamentarci che le cose non funzionano. Certo, per cambiarle bisogna impegnarsi. E allora bisogna anche impegnarsi. Ecco, lei ha detto, infatti nel suo libro ha scritto, io ero convinto che entrando nella stanza dei bottoni qualcosa avrei potuto fare. Poi invece ho scoperto che la stanza dei bottoni, come diceva Nenni, non c'è. Ma dove sono i bottoni? I bottoni sono mobili, i bottoni dipendono dal momento, dipendono dalle leve di forza, di quel momento. E quindi sono... Quindi i bottoni scappano. Difficile trovarli. Senta, mai più politica, no, quindi. No. Basta. No. Una già volta dato. Ha già dato. Dato. Senta, nel 2011 è stata la prima donna a vincere il più prestigioso premio nel settore della medicina veterinaria. Infatti lei è partita da lì. Perché da veterinaria, da Perugia, studiava veterinaria? Perché volevo fare qualcosa di scientifico e volevo andare via di casa. Veterinaria combinava queste due Perugia necessità. Perugia era perfetta. Senta, è vero che al primo concorso di ruolo a Perugia, così ho letto, le hanno detto il posto è suo, però devi portare un pacchetto di voti, è vero? Mi hanno detto, a me non interessa che ti sei laureata con 110 lode e che tutti dicono che sei brava, a me interessa che tu porti voti e poi avevo 23 anni, ero poi anche 23 una giovane anni ragazza. Volevano anche 23 anni, insomma. Lei scrive che se ci credi, se ti batti però, è possibile fare ricerca di eccellenza anche in Italia. È possibile, io sono una paladina, sono stata una paladina di questo. E per questo ho sofferto così tanto per questa storia. Perché adesso le ragazze che mi vedevano come, guarda, lei ce l'ha fatta... E adesso la vedono in America, mi vedono dall'altra parte del mondo. Ecco, lo abbiamo detto, lei arriva a formulare nel 2006 la prima strategia che ha consentito di eradicare un'epidemia di aviaria, cioè, in due parole? No, abbiamo sviluppato un sistema che è anche abbastanza semplice, che in quel momento permetteva di capire se gli animali erano vaccinati e quindi positivi agli anticorpi oppure anche infetti. L'abbiamo sviluppata, l'abbiamo applicata e adesso è inclusa nella legislazione europea, quindi una vittoria italiana. Una grande vittoria. Sì, ecco. E io, ma in parole semplici, su quel brevetto, secondo gli investigatori, avrei fatto milioni e milioni. E invece come? Lo sa, perché avrei lucrato, e invece lo sa quanto ho preso ad oggi per quel brevetto? Quanto? Zero. Senta, ma è lì a proposito di questo brevetto che si parla di 444, un numero importante per lei? Anche questa è una storia. Il 444 era, secondo gli inquirenti, una società segreta che io avevo insieme ai miei collaboratori all'estero, in un paradiso fiscale, dove mettevo i proventi di questo traffico internazionale. Invece cos'era 444? Era un centro di costo, cioè un capitolo di bilancio dell'istituto. Che era il 444. E io al telefono, però, in effetti io dicevo, allora se è rotto il microscopio, dobbiamo farlo sistemare, caricatelo sul 444, oppure Isabella deve andare a Bruxelles, i soldi sul progetto sono finiti, caricatela sul 444. Fantastico. Senta, ma mi spieghi in parole semplici che cosa ha comportato la scelta di depositare la sequenza genetica del primo ceppo di aviaria isolato in Africa su un database aperto? Non può essere anche lì uno dei motivi di... Ha cambiato un paradigma, ha rotto un paradigma, cioè, uno schema consolidato. Fa. No. Però E dopo qualche anno mi è stata data ragione e adesso ci pensa lei se per Ebola non si potessero condividere le sequenze. Certo. Ogni anno viene fuori una nuova emergenza. Noi lavoriamo paragonando le sequenze e i virus che emergono in varie parti del mondo. E questo ha cominciato a farlo lei. E questo ha cominciato a farlo io. E può aver fatto esplodere anche tante gelosie. Vabbè, senta, in Italia il movimento contro la vaccinazione, lo sappiamo, fa proseliti. Lei dice è da criminali portare avanti campagne contro le vaccinazioni. Perché? Le vaccinazioni hanno salvato l'umanità. Io e lei siamo qui perché i nostri genitori si sono vaccinati e noi ci siamo vaccinati. E quindi veramente è criminale. È criminale. Io non posso definirlo ecco, in un altro modo. Ma c'è chi sostiene però che esiste un legame forte tra il business, i vaccini e i virus. Ma non è vero. Cioè, allora, le aziende farmaceutiche non sono delle organizzazioni no profit. C'è. Le aziende farmaceutiche sono for profit e questa in realtà è perché le aziende farmaceutiche statali sono state tutte dismesse. Allora, secondo lei ci guadagna di più un'azienda farmaceutica a vendere il vaccino per l'influenza oppure a vendere le medicine per la polmonite che ti può venire per l'influenza, per mandarti giù la febbre e curarti cioè, dopo 2 settimane? Che non certo. ci fossero. Senta, lei è stata prosciolta, l'abbiamo detto, da tutte le accuse. Vive in America adesso, dove dirige un centro di eccellenza in Florida. Ma l'idea quando è nata di andare là? L'idea è nata quando io mi sono confrontata con una giurista e le ho chiesto quanto tempo durerà questa essere ostaggio, impotente. Quanto ci metto io per far chiudere giustizia, questa faccenda? Sì. 3 anni se ti va bene, 5 anni molto se va così bene, così, 10 anni se va male. Io ho compiuto 50 anni l'altro anno e ho pensato non posso stare qui. Quindi insomma appestata in Italia, regina in America sostanzialmente, è andata così. Sì. E su cosa si concentrano le ricerche in Florida? Ma lavoro sui miei virus. E sui virus, insomma, carissimi i miei, virus. Sì, carissimi virus, ma sto portando avanti un approccio innovativo per aiutarci a prendere delle decisioni relative alla gestione dell'epidemia attraverso l'intelligenza artificiale sto mettendo insieme i più aspetti perché non c'è solo il virus, c'è la zanzara, c'è l'ospite. Ok, ecco, zanzara, Zika per esempio è molto pericolosa davvero. Per le donne incinta molto. Sì. A che punto siete con la ricerca? Che ancora non c'è un vaccino e che se Zika infetta una donna incinta, specialmente all'inizio della gravidanza, è un problema molto serio. Ma è una ricerca che avrebbe potuto fare anche in Italia o no? Certo. Sì. Lei ha detto il talento in Italia non è socialmente riconosciuto. Quando l'ha capito? L'ho capito quando sono stata espulsa. Io sono stata espulsa, non ho avuto la possibilità di restare e di dire la mia versione della storia. Non l'hanno interrogata? Non mi hanno interrogato. Pazzesco. Lei quindi non è un cervello in fuga? No. E per piacere lanciamo da questa trasmissione che abbandoniamo lo stereotipo dei cervelli in fuga e parliamo di circolazione di cervelli. I cervelli devono muoversi, ma così come noi esportiamo cervelli, dobbiamo importarne. E quindi dobbiamo devono importare circolare, gli italiani, l'intelligenza deve circolare. Ma anche gli stranieri. Certo. Lei racconta che dopo l'inchiesta è difficile essere una donna e essere uno scienziato. È difficile essere tutte e due e essere una donna scienziata è ancora più difficile. Cioè, si finisce così? Esatto. Caso drammatico questo. Caso drammatico, ma che serve a qualcosa. Ecco. Senta, lei del suo fatto e dei suoi genitori è stata quella di mandarla al liceo internazionale. Perché? Perché ho imparato una lingua benissimo e perché mi ha aperto la testa. Essere in un contesto internazionale in quegli anni poi. Certo. Adesso è più semplice, ma in quegli anni. Lei ha una figlia, per sua figlia che cosa si augura? Quanti anni ha sua figlia? 12. Cosa studia? Farà la scuola. Fa la seconda media e vuole fare la biologa marina, ma anche l'avvocato. Beh, l'avvocato ha capito che serve. Perché servono. Ha capito che serve. Giudice, meglio. Per ora avvocato, forse perché ha visto che la mamma ha fatto fatica a difendersi. Lei ha detto che dalla sua vicenda che l'ha sconvolta l'esistenza ha imparato molte cose e addirittura pensa di essere diventata una persona migliore. Ma migliore in che cosa? Ma ci si mette in discussione. Io penso di aver cercato di forzare il sistema e di farlo galoppare ad una velocità alla quale forse non era... Ma migliore, dice, mi sento migliore. Migliore dove? Migliore dentro. Migliore dentro. E poi devo dire che io già sono una persona abbastanza tranquilla, ho gestito le epidemie, quindi non è che certo. Mi faccio venire i capelli dritti in testa. Adesso le cose hanno tutta un'altra prospettiva. Cioè? Quando rischi l'ergastolo, io ho avuto paura di andare in prigione e diciamo che ti scivolano addosso le cose. Le altre. Ha anche detto, se combattere i virus, se trovata il virus, diciamo, di quella che si chiama genericamente, abbiamo sentito, l'amara giustizia. Si è fatta un'idea di come si può sconfiggere questo cancro dell'amara giustizia? Guardi, io faccio il virologo e quindi non mi espando in campi che non conosco. Però mi lasci dire. Dica. Allora, le intercettazioni che mi accusavano di essere una trafficante di virus risalgono al 2006. L'articolo dell'Espresso che è uscito nel 2014 senza che io ricevessi un avviso di garanzia in merito, senza che io ne sapessi nulla, ci ha messo quindi 7-8 anni a vedere la luce. La mia domanda è questa. Ma se lei fosse un magistrato e fosse convinto che io, in quel momento, perché mi stavano ascoltando al telefono, avessi realmente... Messo a rischio la vita di tutti. Perché, esatto. Perché non è trafficante di virus, è l'altra. È procurata epidemia. Lei avrebbe aspettato 8 anni per far vedere la luce questa indagine? Mi avrebbe dovuto arrestare allora? Certo. Non avrebbe... Cioè, perché io nel frattempo avrei potuto ammazzare 5.000 persone, certo, no? Certo. E questo è quello che è difficile da capire e da spiegarsi. E questa è veramente, proprio è surreale questa storia, perché delle due l'una, se ci credi mi devi arrestare, se non ci credi... Informati bene. Tu mi sta, ma non solo, ma tu stai giocando con la mia vita. Ecco, ma Mario, che cosa ci insegna una storia come quella della Capua nel rapporto tra media e giustizia, perché sempre lì stiamo... Che gli errori possono essere clamorosi e possono essere diabolici se vengono, no, come dire, continuativamente portati avanti, che diventano un disastro però anche umano se tu poi non correggi. Lì, ma Pietrangelo, lì c'è questo. E la frase rituale, l'esorcismo d'obbligo che di solito si sente nelle televisioni, si legge nei giornali, quando si dice ho fiducia nella magistratura, è ribaltato nella sostanza e nella realtà, nel senso che la giustizia, e bisogna ricordarlo, in Italia, soprattutto laddove è diventata una retorica, non è nient'altro che una malattia, è qualcosa che può capitare a tutti, non necessariamente il sano diventa malato, ma obbligatoriamente chi è sano si ritrova nelle condizioni del malato. Purtroppo l'Italia ha un record che è quello di storie tutte precipitate nell'assurdo. Purtroppo l'Italia è anche il luogo dove un esercizio obbligato della retorica ha determinato anche delle mistificazioni spaventose, non ultime quelle che hanno portato alla stagione paradossale della mafia, dell'antimafia, non ultime quelle che recentemente hanno coinvolto una surreale polemica come quella sul caso di Totò Riina, un caso dove l'inesistente è diventato la polemica principale su cui tutti si sono esercitati a gracidare parole e opinioni, e non è nient'altro che il ritorno a quella che era la formula semplice quando allo stadio entrava il vecchio e gli ateniesi dicevano fate sedere il vecchio, fate sedere il vecchio, nel frattempo che gli spartani si erano già alzati e l'avevano fatto sedere. Ecco, però la Capua non è stata ascoltata dai giudici, lei che no. Si è presentata per dare la sua versione, cioè, questo è forte, 6 anni, 8 anni, adesso non mi ricordo bene, è tanto. Sì, e poi un'improvvisa escalation di tutto questo quando lei è diventata parlamentare. Certo. Una strana coincidenza. Coincidenza, non, cioè, non è, io sono, mi conosci, non sono per i complotti, le cospirazioni, però è strano, molto, molto. Insomma, la storia kafkiana. Beh, io invece sono per i complotti. Sì. Anch'io un po'. È divertente. Anch'io un po'. È divertente come la recente questione del mafioso Graviano alle prese con Gianfranco Miglio. Ma tu te immagini? Il professor Miglio. Graviano e Miglio che lingua parlavano intanto. Sì, no, meraviglioso. Quella... Io mi immagino Miglio che vede Graviano e dice, no, guardi, perché lo sbrego costituzionale, adesso le spiego, no? Le tre Italie e poi il diritto teutonico. Ma dai, Miglio che oltretutto favore. Parlava in tedesco e ricordava, aveva esatto. questo vezzo di della nonna che contava le galline in sì. tedesco, Eins, zwei, drei, al che Santi con Correnti, Graviano, tutti immagini. Santi Correnti, storico siciliano, obiettò, e sì, mio collega, anche mia nonna contava, certo, contava in siciliano, ma non contava le galline, contava i feudi. 800240024 numero verde 349238 6666 SMS pubblicità. State ascoltando un programma offerto da. Per gestire le risorse umane ci vuole experience. Scoprila su inaz.it. Mix 24. Allora, Pietrangelo, eccomi. Che sentiamo oggi? Arriva. C'era Belfagor, il fantasma del Louvre nella metropolitana oggi, Giovanni, è proprio quello dello sceneggiato, e però il fantasma questa volta non spaventava, anzi al contrario svelava in se stesso un'inquietudine ed era incapace di sorridere. Ha chiamato Juliette Gréco, ha voluto questo brano proprio per Belfagor con un messaggio: sei la paura di cui non ho più paura. Allora Mario, dove andiamo con la tua bolla? Andiamo in Germania, in realtà in Europa, in casa. Pauline Crozet, bravissima, Abusò. Beh, questa è una delle ultime canzoni che mettiamo qua a Mix 24. Sono stati 4 anni di grandi playlist, devo dire. Bellissime, sì, molto richieste dai sì. le vostre playlist, perché sì. la mia è solo no, dobbiamo ringraziare attraverso la guerrera. Ringraziare gli ascoltatori che ci hanno aiutato ad affinare il nostro. Vabbè, ti troveranno, ti possono leggere su lista adesso. Sì, no? Certo, sì. Non sì. sparisci. No, cioè, che leggere. Cos'è questo list? List è una newsletter, è una boutique editoriale dove i lettori possono iscriversi, è facile, l'indirizzo è www.newslist.it e tutti i giorni, tutte Vabbè, le mattine... Me la consiglio perché è davvero qualità super di Giovanni è un grande Vai. Lettore di liste, sì, grazie. È vero. E allora questa inflazione in Germania? Allora, l'inflazione in Germania è molto interessante perché nel mese di maggio è calata ancora 1.4%, quindi l'indice dei prezzi è influenzato, e la conferma, dal costo bassissimo dell'energia in questo momento e dai vegetali, che sono un elemento del paniere anche in Italia molto influente, e naturalmente il petrolio la questione, e questo però ha delle conseguenze, è un paradosso terminale della storia contemporanea, cioè la Germania, che è lo Stato, la nazione europea che chiede a Mario Draghi di darci un taglio con il quantitative easing, cioè il programma di acquisto di titoli da parte della Banca Centrale, di cui beneficia grandemente l'Italia, sono oltre 200 miliardi di euro finora. Proprio la Germania dà un argomento invece a Draghi per proseguire, perché l'inflazione 1.4 è lontana dall'obiettivo della BCE del 2. E quindi restiamo là. Ci sarà una battaglia ovviamente tra Waitman e gli altri, però è interessante da seguire. Pietrangelo, prima del salamino c'è una signora, Marta da Parma, che scrive una cosa interessante per te, perché dobbiamo avvisarla che effettivamente lei ti consiglia di scrivere un libro con tutte con questi tuoi salamini, con queste tue note, filosofico, poetiche, eccetera. Come quella della nonna di poco fa. Ecco, il libro c'è. Il libro ne c'è. Ha scritti una quantità industriale di libri quest'anno. Cioè, ogni giorno un libro, quindi no, ce la rassicuriamo. Che, i baci sono definitivi. I baci grazie, sono definitivi. Signora Marta, i baci sono definitivi. Salamino. Il secchio e la corda, la fame e la sete, la notte e il giorno. Giovanni, il più nazional popolare tra i democristiani, incontra il più democristiano dei grillini. Complice una cerimonia in onore di Armando Trovajoli, Pippo Baudo e Luigi Di Maio si confrontano alla Camera dei Deputati ed è subito... Roma non fa la stupida stasera. Alto, alto, l'altro brivilineo, bellissima quella, il perché? Uno dalla testa argentea, l'altro impomatato, pronto per la sua eterna prima comunione, i due arci italiani si sono visti per caso e hanno duettato, caro Giovanni, caro Mario, sulla materia incandescente, quella del popolo in cerca di pastore. La sostanza qual è? Che Di Maio guardava Baudo come Berlinguer poteva restarsene incantato davanti a Karl Marx, redivivo, perché senza il barbuto profeta di Das Kapital non ci sarebbe stato il comunismo. E così, senza Pippo Baudo, senza il profeta di Militello Val di Catania, il suo nome è Donna Rosa, cara, bella, sorridente, deliziosa. Senza questo profumo di Militello, insomma, nessuno si sarebbe accorto di Grillo. È uno scopritore di talenti e uno di questi, ha subito ricordato Di Maio, io lo conosco bene. Chi era? Terribile. Va bene, io me ne vado. Te ne vai già. È finito, vi ringrazio, ci vediamo a Fantastico 18. Sempre convinto. Ciao a tutti. Ciao Beppe. Ciao, grazie. Ciao. Cauto e democristiano, Baudo ha subito precisato, ma io l'ho scoperto come comico, ma democristiano e perciò avvolgente, l'immenso Pippo nazionale e popolare ha comunque lodato le virtù democristiane del grillino illebole. Certo. Ha detto arte della mediazione, autocritica, caratteristiche proprie di Di Maio. Ora, flop o meno del Movimento 5 Stelle, stordito dalla bellezza di Serena Autieri, bellissima e bravissima, bellissima e bravissima, travolto. Dove è nata Serena Autieri artisticamente? È nata un posto al sole. Ah sì? Sì. Quindi ti è andata meglio di Baudo. Baudo ha dovuto scoprire Grillo. No, io Serena Autieri meglio. Meglio. Quindi, colpito da Serena Autieri, travolto dalle battute di Enrico Montesano, Di Maio se n'è rimasto catturato dalla frizzante atmosfera creata dalla brigata degli ospiti, tutti reduci della sbagliante avventura della commedia italiana. Aggiungi un posto a tavola, che c'è una... All'insegna dell'aggiungi un posto a tavola. Sai qual è il concetto che è venuto fuori, caro Giovanni, caro Mario, qual è? C'è futuro se c'è passato. Questo è stato il tuono dato da Pippo Baudo. Ed è il monito consegnato al giovin Di Maio, il quale ha avuto pure i lucciconi nel sentire Montesano evocare con Aldo Fabrizi chi? Mastro Titta, il boia papalino del Rugantino che zac! tagliava la testa ai reprobi per conto del Papa Re e quindi cantava: è bella vena donna dentro casa, una rondine indifesa che hai preso sotto al tetto. Una rondine indifesa. E questa rondine indifesa ha lasciato nello sguardo di Di Maio un'aria sognante sulle note di Trovaioli. Già si capiva quale, chi è, insomma, la donna da tenere dentro casa, senza pensieri d'amministrazione, senza scomodarsi in Campidoglio. Certo, direte, a chi pensava? Alla Raggi, dentro casa, perché comunque non è questa volta il paese del sole, bensì la Roma di Rugantini. Pensa che bellezza. Bravo Pietrangelo, bellissimo. Bene. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666. Un saluto a Carlo da Treviglio e pubblicità. Mix 24. Cosa si prova ad essere un simbolo? Un simbolo di che? Un simbolo della rivoluzione. Nel gennaio del 1959, quanti anni aveva? Avevo 30 anni. La nostra lotta è una lotta fino alla morte. È l'icona della rivoluzione cubana, un mito e un'ispirazione per chi vuole diffondere il comunismo nel mondo. È Ernesto Guevara. Nato il 14 giugno del 1928 a Rosario in Argentina da una famiglia borghese, Che Guevara si laurea in medicina, ma da subito mostra i sintomi della rivoluzione. Il mondo lo conoscerà come il Che, un soprannome che gli viene dato dai compagni di lotta cubani. Appassionato di fotografie e di viaggi, nel 1958 è già al fianco del Fidel Castro e dell'esercito dei Barbudos. La loro impresa è la conquista dell'Havana il 2 gennaio del 1959, ma è solo l'inizio del lungo viaggio rivoluzionario del Che nel Sud America. Un'avventura rivoluzionaria che si chiude il 10 ottobre del 1967, quando cade per mano dell'esercito boliviano, che esibisce il suo cadavere come un trofeo. Una massa di persone sfila in processione davanti al suo corpo, e se lo scopo dei boliviani era privarlo dell'alone di leggenda, non riesce. La decisione di esibire il suo corpo lo consacra, al contrario, all'immortalità. Ti dico una cosa, anche se potrà sembrarti ridicola. Un vero rivoluzionario è guidato da un grande sentimento d'amore. Amore per l'umanità, amore per la giustizia e per la verità. Viva Cuba Libera! Vabbè, questo era il Che Guevara. E per i gialli della storia, il racconto degli ultimi giorni di Che Guevara. Naturalmente, dopo il Gennaro Radio, c'è una piccola bolla, Mario. Ma ancora? Dunque, aggiornamento rapido sull'incendio al grattacielo a Londra, perché ci sono dei morti, ma non si sa ancora quanti, non l'hanno detto, una tragedia pazzesca. E per fare contento Pietrangelo, facciamo partire della musica, ce l'abbiamo. Ma abbiamo poco tempo, eh? Voliamo. No. Pietrangelo, dimmi. Il tuo Di Maio in questo momento sta incontrando 27 ambasciatori della UE all'Hotel Kolbe di Roma. Ottimo. Hai visto? Vabbè. Con le musiche di Trovaioli. Adesso con il professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. Lancet, maggio 2017. Nuove strade per il trattamento delle vampate nella menopausa. Nei prossimi 25 anni, 1 miliardo di donne avranno più di 50 anni, quindi saranno in età da menopausa. Le vampate sono il sintomo tipico di questa età ed è una condizione che disturba molto, insieme alla stanchezza, a problemi di cognitività, insomma si sta male, e le vampate sono il sintomo cardine di questa situazione biologica. Queste vampate sono determinate da un meccanismo con sede in una parte del cervello, l'ipotalamo, meccanismo che disturba il funzionamento dell'ipotalamo con le conseguenti vampate e quant'altro, perché c'è un deficit di estrogeni. Si è trovata ad oggi, e questo è quello che ci dice il lavoro in questione, una sostanza dal nome impronunciabile, l'antagonista MLE-499 del recettore Nemochina 3, che lavora su questo meccanismo ipotalamico e si è dimostrato efficace nelle vampate delle prime donne che sono state testate, 28 in particolare, con questa sostanza. La menopausa è una situazione stressante che viene normalmente ad oggi trattata per periodi brevi con la terapia sostitutiva con estroprogestinici, che ci mettono un po' di tempo a fare effetto e soprattutto poi non possono essere procrastinati, non possono essere utilizzati per tempi lunghi. Quindi è interessante averci l'apertura di nuove strade che permettano alle nostre donne, che così tante raggiungeranno la menopausa, di avere un periodo non disturbato e non spesso drammaticamente inefficace come quello ad oggi denominato menopausa. E per chiudere, Gloria Guerrera, che cosa ha scelto per noi oggi? Oggi una canzone per chi ha avuto la fortuna di riacchiappare al volo quell'amore distrattamente sfuggito. Max Gazzè e Nicolò Fabi, Vento d'estate. Ho lasciato scappar via l'amore, l'ho incontrato dopo poche ore, è tornato senza mai un lavoro.